agateng diam pajonok man tulang bukong hasian na burju masatro hakito say busi sauna moloso hui dahon di lambuki Molo so huida ho di lambuki.